assenti illustri ai tavoli che contano e chi parla appoggia sempre e comunque la pistola sul tavolo. Benvenuti a una nuova diplomatica puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. The direct confrontation between Putin and Erdogan has been averted for now with a ceasefire declared in Idlib. After United States President Donald Trump has spoken with Taliban leaders, a Taliban attack that has claimed 20 lives. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, questo è Nessun Luogo è Lontano, con me ci sono Antonio Tali, Lara Sesana, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo e Valeria Bernardi che è in regia. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp per domande, commenti e anche critiche sui temi che tratteremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Lo potete fare anche attraverso i social che sono Facebook, la pagina Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, ovvero Twitter. I due account da tenere d'occhio sono Nessun Luogo 24 oppure Giampaz. Ah, non vi ho detto il tema di quest'oggi. È questo qui. Accordo Stati Uniti-Talebani. Ashraf Ghani, presidente dell'Afghanistan, mai invitato. Accordo Israele-USA sul piano di pace per il Medio Oriente. Palestinesi, assenti. Accordi sulla Libia. Libici non invitati. Crisi siriana. Erdogan va a Mosca, ma Assad resta a Damasco. Questo il tema di quest'oggi che vi propongo in questo venerdì, ultima puntata della settimana di Nessun Luogo è Lontano. La grande attualità internazionale continua a proporci tavoli di crisi, quadranti che soffrono di conflitti ormai di lunga data, e poi la diplomazia che cerca di svolgere il suo compito. Però guarda caso, molto spesso e nei conflitti e nelle crisi più gravi, gli attori che dovrebbero essere parte del processo decisionale non vengono invitati. Abbiamo raccolto i quattro casi più eclatanti, dall'altro quella firma dell'accordo di pace avvenuto a Doha tra chi? Tra gli Stati Uniti e i talebani. E mancava il presidente Ashraf Ghani, considerato dai Taliban un vero e proprio fantoccio nelle mani degli Stati Uniti, e così Ashraf Ghani ha dovuto subire in qualche modo la decisione degli Stati Uniti. Poi andiamo al famoso o famigerato, secondo i palestinesi e il mondo arabo, piano di pace di Donald Trump in accordo con Israele per il Medio Oriente, in particolare per i territori palestinesi appunto non pervenuti. E poi ancora un caso che ci riguarda molto più da vicino: l'intera Europa e non solo si è mossa per dalla conferenza di Berlino in poi, ma anche con tanti altri tentativi precedentemente, per mettere ordine nel caos libico, con la strana e stonata nota per cui nei consessi internazionali più allargati i libici loro non c'erano quasi mai. Infine, la recentissima cronaca internazionale ci restituisce un lungo colloquio di almeno 6 ore, durato appunto ieri, avvenuto ieri a Mosca, tra il presidente Erdogan, presidente turco, e il presidente russo Vladimir Putin. Si parlava di Siria e guarda caso, anche in questo caso il presidente Assad era a Damasco. Sempre più in questo preciso momento storico, nelle crisi internazionali e nelle loro risoluzioni diverse, la diplomazia la fanno soltanto gli attori quelli più potenti, quelli più muscolari, e poi i diretti interessati spesso non ci sono e non possono far altro che subire le scelte. Attori potenti e muscolari significa Stati Uniti, Russia, Turchia, ma anche altri. E cosa vuol dire potenti e muscolari? Beh, semplicemente che hanno ottimi eserciti, ottime capacità militari, ma soprattutto che le schierano e le fanno vedere. Perché si va al conflitto? Beh, secondo varie teorie si va alla guerra quando con strumenti diplomatici non si riesce a ottenere il proprio obiettivo. E si noterà che tante volte il conflitto può essere economicamente più gestibile che una lunghissima opera di diplomazia, magari più civile, che magari va tessuta con tanti attori, ma richiede veramente uno sforzo incredibile. Stiamo assistendo a un momento cruciale, un cambio forse di paradigma nelle relazioni internazionali, e con quali conseguenze? Questo è il tema di quest'oggi. Vi invito fin da adesso a scrivere al 349-238-6666, Facebook Nessun Luogo Lontano, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, ma anche questo venerdì andiamo a misurare la temperatura. Si sono incontrati oggi a Zagabria i ministri degli esteri dei paesi dell'Unione Europea per valutare ulteriori misure da adottare per fronteggiare la crisi che ormai stiamo raccontando da alcuni giorni al confine tra Turchia e Grecia. Quello che è uscito nelle parole, fra l'altro, di Josep Borrell, che è responsabile della politica estera dell'Unione Europea, su un ulteriore stanziamento di 60 milioni di euro in aiuti umanitari che saranno investiti nella regione di Idlib. E poi l'annuncio di una nuova conferenza che si terrà a Bruxelles per parlare della situazione in Siria. Poi però sono stati ribaditi alcuni punti. Primo, che le frontiere dell'Europa sono chiuse e che è essenziale la difesa della frontiera stessa. Prova ne sia l'invio della, che ormai dovrebbe arrivare a giorni, di quel team di rapido intervento di Frontex, che è un'unità specializzata, e la Grecia ne ha fatta richiesta, che può intervenire proprio in casi in cui vi sia una pressione di flussi migratori ritenuta non sostenibile da un paese dell'Unione Europea. Nel frattempo un po' di numeri. Sapete che c'è stato anche un balletto di cifre tra il governo turco e quello greco. Il balletto di cifre sui migranti che sarebbero passati o avrebbero provato a passare è soltanto l'ultimo atto di una guerra anche di propaganda e mediatica che si sta svolgendo fra Ankara e Atene. Dicevo, secondo le fonti greche sarebbero 35.000 i tentativi di ingresso illegale che la polizia di frontiera greca è riuscita a respingere. 7.000 nelle sole ultime 24 ore. Le cifre, e qua torniamo al concetto della guerra di propaganda, sono un quarto di quelle riferite da Ankara. Proprio ieri vi dicevamo che il governo turco sosteneva che fossero 138.000 i rifugiati che stessero premendo alle frontiere. Altro punto da ormai, come dire, consolidare, ma ulteriormente sottolineare: la maggior parte di questi rifugiati che premono sono soprattutto afghani e non siriani, e qui anche su questo tema la propaganda turca aveva cercato di legare in maniera indissolubile le vicende di Idlib alle vicende della frontiera turco-greca. La tensione è ben lungi dal calare, tant'è vero che vi dicevamo dei 1.000 uomini delle forze speciali turche schierate lì sul confine. Anche la Grecia ha risposto con polizia in tenuta antisommossa, ma mezzi corazzati e 1.000 soldati e con vari pattugliamenti. Staremo a vedere l'evoluzione di questa crisi nei prossimi giorni. Chi ci segue, i più attenti, ricorderanno di quando qualche giorno fa avevamo dubitato della notizia di quel ragazzo, questa volta era siriano, di Aleppo, un giovane trentenne di Aleppo che era stato ucciso, secondo varie fonti, da un colpo di pistola sparato dalla polizia greca. Secondo Forensic Architecture, che è un'agenzia che si occupa dell'analisi dei contenuti mediatici, immaginate appunto una foto o un video che circola su Twitter di cui si dubita della sua veridicità, ebbene questo team non fa altro che analizzare il video, il contenuto iconografico, per capire se è vero o meno. Ecco, sarebbe confermata, secondo Forensic Architecture, la veridicità di quel video. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, fra poco ve ne darò conto. Lasciatemi terminare il termometro, perché peraltro questo dossier, questa notizia, è poi collegata ovviamente alla nostra puntata. Vi dicevo, 6 ore di negoziati tra Putin e Erdogan ieri a Mosca. Vittoria diplomatica intanto, tra virgolette, per Putin, che ha imposto che l'incontro si svolgesse a Mosca e non ad Ankara. Detto ciò, quello che si è deciso è piuttosto interessante, perché si è parlato della creazione di un corridoio di una larghezza di circa 12 chilometri a sud e a nord lungo quell'autostrada che si chiama M4. È una delle due arterie fondamentali, la M5, che è come se fosse, perdonatemi il parallelo forse un po' prosaico, la nostra autostrada del sole, quindi la grande arteria che va da nord a sud della Siria. La M4 è quella Torino-Trieste, andiamo da Aleppo fino a Latakia, quindi lo sbocco sul Mediterraneo. Ebbene, sempre con una Assad assente da questo colloquio, si sono spartiti un bel pezzo di quell'autostrada M4, e secondo molti analisti sarebbe un'ulteriore vittoria per Vladimir Putin, che in questo modo punterebbe a crearsi proprio un collegamento lungo la M4 da Aleppo, dove sono già presenti i soldati russi, fino a Latakia. Dall'Latakia poi si scende a Tartus, dove c'è la base militare russa, e qui insomma le speculazioni possono essere tante, ma col prossimo ospite vedrete che daremo corpo a qualche pensiero in più. Continua intanto la saga post-elettorale in Israele. Vi ricordate quella vittoria di Benjamin Netanyahu, che lo stesso Netanyahu aveva salutato come la vittoria più bella della mia vita? Purtroppo però, dal punto di vista della conta dei seggi, il Likud, con la coalizione di fondamentalmente centrodestra, arriva a 58 seggi, il che vuol dire che non può governare, perché nel Parlamento bisogna avere 61 seggi. E dobbiamo ricordare che il 17 marzo Benjamin Netanyahu si troverà di fronte alla prima udienza per le varie accuse, tra cui quella di corruzione. Benny Gantz, partito bianco e blu, il suo nemico nell'ultima tornata elettorale, ex capo di Stato Maggiore della Difesa, un uomo anche, come dire, dall'andatura, dalla postura e anche dall'eloquio piuttosto forte, piuttosto militare, appunto, e come dire, inizia a lanciare qualche strale verso Benjamin Netanyahu, dicendo: attenzione, non è in grado di governare questo paese. E rilancia facendo che cosa? Propone sostanzialmente una grossa coalizione all'interno di Israele per far passare una legge che vieti a Netanyahu di poter governare il paese stesso. In questa coalizione, per far passare la legge, ci sarebbero il partito arabo-israeliano e soprattutto l'altro ago della bilancia, che è il partito guidato da Lieberman. Giochi fatti, direte voi. A questo punto Netanyahu fuori dalla scena politica e Benny Gantz che governa. Non è così facile, perché Lieberman ha sempre detto che mai e poi mai guiderà il paese in una coalizione in cui vi siano anche gli arabi. Un'altra notizia delle ultime ore ha riacceso la nostra attenzione sulla Tunisia, perché alle 11:20 di questa mattina un uomo, un kamikaze, in sella a una moto o un motorino, si è fatto esplodere nei pressi dell'ambasciata statunitense. Ha fatto parecchi feriti tra le forze dell'ordine tunisina, compreso un morto, appunto un poliziotto tunisino che sarebbe morto, e tra i feriti vi sarebbe anche un civile. La nostra memoria è corsa immediatamente a parecchi anni fa, era il 2012, il settembre, quando un grosso attacco e un assalto a tutti gli effetti all'ambasciata statunitense in Tunisia riaccendeva i riflettori, un anno dopo la primavera araba, sull'importante paese della costa nord africana. È presto per fare speculazioni e cercare di capire chi vi sia dietro questo attacco, ma non nascondiamoci dietro un dito: è evidente che in Tunisia vi sono tuttora cellule e dinamiche jihadiste che non sono mai sopite. L'ultimissima notizia del nostro termometro ci riporta in Afghanistan, perché sempre questa mattina, e in maniera quasi, come dire, tragicamente paradossale, allo stesso orario locale dell'attacco in Tunisia avveniva un altro attacco durante una cerimonia di commemorazione della morte di un leader politico. Vi era anche Abdullah, che il presidente, il mancato presidente afghano, perché poi Ashraf Ghani è stato riconfermato. Si sono sentiti rumori, spari di Kalashnikov, poi sono arrivati anche razzi, probabilmente RPG, molto vicini al palco. Il bilancio: 29 persone, 61 feriti, e non è un caso che la stessa cerimonia anche l'anno prima era stata attaccata facendo 11 vittime. Attenzione, ultima nota, stiamo parlando di Kabul, ieri parlavamo di stati fragili, pensate, la capitale dello stato afghano, il cui 50% del territorio è detenuto dai talebani, con gli Stati Uniti che si preparano ad andarsene entro 14 mesi, ebbene, viene colpita in maniera così drammatica e tragica, con 29 morti e 61 feriti. Allora, visto che ci sono tantissimi messaggi al 349-238-6666 che, come dire, hanno colto quella che era la nostra tesi, cercare di capire in buona sostanza se parlano più le armi o più la diplomazia, entriamo nel cuore di questa puntata. La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi. È una celebre frase di Karl von Clausewitz, generale dell'esercito prussiano durante le guerre napoleoniche, diventato famoso per avere scritto il Trattato di strategia militare della guerra, Vom Kriege. Avulso da considerazioni di carattere morale, Della guerra, pubblicato per la prima volta nel 1832, presenta il conflitto armato come uno strumento inevitabile conseguente al disaccordo tra le parti. Corollario della tesi principale dell'autore sarebbe che la diplomazia non sempre può essere la soluzione. E con questa citazione entriamo nel cuore dell'argomento, del tema della puntata di quest'oggi, Nessun luogo è lontano. Lo dicevo, i quadranti che abbiamo molto velocemente passato in rassegna all'inizio e durante i titoli ci danno l'idea di quanto quella tesi forse sia non solo vive vegeta, ma ben abbracciata da tanti leader mondiali. Partiamo da un dossier che conosciamo molto bene, che abbiamo raccontato spesso e dove vi sono stati tanti assenti, quelli che sono i soggetti che dovrebbero essere coinvolti in qualsiasi conferenza in cui si parli della riappacificazione proprio di quel paese. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Arturo Varvelli, direttore dell'European Council of Foreign Relations di Roma. Arturo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, proviamo, Arturo, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, che va a ripercorrere quello che è lo stato dell'arte dei quadranti che stiamo seguendo in questi mesi e allo stesso tempo propone una tesi, quella delle assenze illustri, per così dire, no? Altri soggetti decidono per chi è assente. Guarda caso, chi decide di solito ha pistole di grosso calibro posizionate lì su quel tavolo in cui normalmente si dovrebbe esercitare la diplomazia. Le grandi assenze per il dossier libico, forse sarebbe più facile, no, dire chi era presente e chi no. Insomma, decidi tu se andare con l'approccio positivo o negativo, Arturo Varvelli. Ma possiamo come dire che la crisi libica è esemplificativa di quello che dicevi, e anche del fatto che gli attori interni, cioè gli attori che risiedono in un luogo, che vivono quel luogo, sono sempre meno padroni dei propri destini. Lo sono potenze esterne che spesso, molto spesso, tengono le armi in mano, in pugno, e che anche hanno una capacità di manovrare questi attori che sono sul terreno. In questo caso, il caso della conferenza di Berlino, abbiamo visto che volontariamente non si è voluto mettere attorno a un tavolo i libici. Questa è la percezione della comunità internazionale, in buona parte vera, contano poco in questo momento. Contano poco perché contano di più i supporter esterni alle fazioni interne libiche. Sì. E quindi l'idea è: mettiamoci intorno al tavolo prima noi, potente, decidiamo un cammino comune e poi diciamolo ai libici. Sì. Il problema è che quasi sempre anche queste conferenze o questi incontri sono stati dei bluff. Sì. Cioè si dicono delle cose che poi in realtà sul terreno non si portano avanti. È vero sul caso libico, certamente lo è stato in passato sul caso afghano, lo è stato talvolta anche su quello siriano, dove comunque due contendenti molto importanti come Erdogan e Putin hanno la capacità sia di confrontarsi militarmente e poi di sedersi attorno a un tavolo. Una questione piuttosto, come dire, bizzarra, questa duplice ambiguità. Sì, decisamente. Arturo Varvelli, lo ricordo, dirige l'European Council of Foreign Relations di Roma e per anni, e penso ancora per tanti anni ancora, seguirà soprattutto il dossier libico. Siamo in un caso, Arturo, in cui quella che abbiamo definito muscolarità degli attori, con questa metafora particolarmente seducente, spero e credo, insomma, nel caso libico è muscolarità conto terzi, perché poi alla fine Haftar, che è chi ci mette la faccia, è supportato in maniera molto corposa, per esempio, dagli Emirati Arabi Uniti, dall'Egitto, secondo alcune fonti giornalistiche dall'Arabia Saudita, addirittura l'anno scorso, con una pioggia di milioni di dollari che gli avrebbe garantito anche certe apnee petrolifere degli ultimi mesi. È strana anche questo aspetto, no? Cioè della forza conto terzi. È come se si scegliesse quello che qualcuno in maniera irriverente potrebbe chiamare un fantoccio, una figura, un frontline. Vi ricordate negli anni 90, quando vi erano quelle band che cantavano in playback, no? Ecco, mi viene questa strana metafora, questo strano parallelismo. Haftar è come se non cantasse di voce propria, la canzone gliela scritta qualcun altro e il disco gliel'ha stampato qualcun altro. Questa forse è la bizzarria più strana, il nodo più difficile da sciogliere per la diplomazia tradizionale, no? Sì, la tua metafora è perfetta. Diciamo che c'è un altro termine, un termine diciamo più tecnico, più politologico, che è quello di guerra per procura. Sì. Sostanzialmente io non mi impegno in prima linea talvolta, perché talvolta invece abbiamo visto impegnati in prima linea questi attori. Se guardiamo il caso siriano lo vediamo direttamente. Sì. Però talvolta non mi impegno in prima linea, perché diminuisco qualsiasi conseguenza negativa, perdere degli uomini, avere dei costi alti, un danno d'immagine se vengo sconfitto, eccetera. Però finanzio, foraggio, aiuto militarmente, economicamente, politicamente, un attore che garantisce i miei interessi. Si crea un legame molto forte che è difficile spezzare, si crea un legame di dipendenza dell'attore interno verso l'attore esterno, verso chi ti supporta. Si crea una sorta di patronato, sì, cioè diventi un padrino. Sì. Haftar, per esempio, è stato capacissimo in questo, si è creato molti padrini. Io direi che questo ha favorito anche una sorta di imbrigliatura di Haftar da parte di questi padrini, e anche il fatto che sia molto difficile contenerlo, perché lui sa giocare ogni volta, come dire, con il padrino che lo supporta più degli altri. Sì, in quella specifica occasione, esatto, lui va a aspirare la benzina, sì, da chi gliela dà in quel momento. Ha messo i padrini in concorrenza. E questa, in effetti, forse è l'abilità diplomatica. In questa puntata, gentili ascoltatrici e ascoltatori di Nessun Luogo Lontano, ci stiamo chiedendo quanto la diplomazia tradizionale sia ancora efficace. Vi sono tanti teatri in cui ancora si combatte da 10, 20, 30 anni e in cui sembra che ad aver ragione e a decidere, a sedersi al tavolo, sia sempre, e rubiamo ancora immagini filmiche se volete, il pistolero che la prima cosa che fa appoggia la pistola sul tavolo e dice: e adesso è il momento di parlare. Con uno slogan, Arturo Varvelli, se riesci, lo ricordo, dirige l'European Council of Foreign Relations di Roma, è il momento della sconfitta della diplomazia tradizionale, con questi attori così spregiudicati che intanto mettono gli eserciti, i droni, e poi si vedrà nelle conferenze. Sì, è sicuramente così, diciamo, forse sconfitta è un termine troppo forte, ma sicuramente lo spazio per la diplomazia in questo momento è eccezionalmente diminuito. È una di quelle fasi storiche in cui vi è poco spazio per la diplomazia, o vi è uno spazio per, come dire, la diplomazia de facto, che è anche l'uso dello strumento militare. Cioè, sì, quando tu puoi disporre di un uso dello strumento militare e lo metti sul piatto della bilancia, allora tu puoi, a quel punto diventi anche un attore diplomatico di peso. Il caso turco sulla crisi libica è esemplificativo. La Turchia era stata un supporter, diciamo, però ancora lontano, esterno al quadro militare all'interno della Libia, perché ha sempre supportato la Fratellanza Musulmana, frange di Misurata, milizie della Tripolitania che supportavano il governo di unità nazionale e di Serraj, ma a un certo punto, come dire, ha fatto all-in. Sì. Ha buttato le fish sul tavolo e ha detto: io me la gioco tutta questa crisi fino in fondo. Sì. Ecco le armi, ecco i soldati, e ha creato quel legame di dipendenza, per, sì, cui ora il GNA non appare più come il governo delle Nazioni Unite, cosa che ancora formalmente è, ma appare come un attore che deve rispondere ad Ankara. Grazie mille. Arturo Varvelli dirige l'European Council of Foreign Relations di Roma. Arturo, buona giornata e buon lavoro. Alla prossima. Buona serata. Allora, 349-238-6666 per voi. Adesso devo dare la borsa, poi vi darò conto di un po' di commenti e di vostri messaggi che arrivano sia su Libia che sulla questione migratoria. Tra pochissimo, informazione finanziaria intanto. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati e in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi, ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta anche in video, con contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione si sente. Si sente. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Brescia ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ASST Spedali Civili di Brescia, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per affrontare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Proseguiamo in questo viaggio, in questa analisi di Nessun luogo è lontano, in questo venerdì in cui andiamo a fare il punto, lo stato dell'arte delle varie crisi internazionali di cui ci stiamo occupando in queste settimane, con un'argomentazione e un suggerimento di riflessione in più. Un momento storico in cui, guarda caso, nella quasi totalità dei grandi consessi internazionali dove si decidono le cose vi sono illustri assenti, e quasi sempre questi illustri assenti sono proprio quei soggetti su cui ricadranno le decisioni di quel consesso internazionale, dalla crisi libica a quella del Medio Oriente fino a quella siriano-turco-greca. Gli esempi non mancano. Tra pochissimo col prossimo ospite proveremo ad esplorare meglio quello che è lo stato dell'arte della diplomazia internazionale, ma anche europea, in questi mesi e in questi anni. Prima la voce a voi ascoltatori: la diplomazia è stata sconfitta dalle esigenze mediatiche della politica, non c'è più posto per una nuova Oslo, tutto è diventato photo opportunity da spendere in casa, così un cinico ascoltatore. Qualcuno torna al dossier libico, ma allora quando l'Italia ha visto per primo il generale, intendendo immagine il generale Haftar, non ha così sbagliato a contattarlo per primo. Il problema, gentile ascoltatore, mi sento di riassumere quella che è la quasi totalità delle tesi degli analisti su Libia: l'errore di politica estera dell'Italia è stata a un certo punto questa ambiguità tra l'appoggio al Serraj, i contatti con Haftar, di cui Tripoli ha sofferto molto. Non è un caso che non vi siano gli italiani a Tripoli adesso, ma vi siano i soldati turchi, sempre in omaggio a quella muscolarità, a quella spregiudicatezza, quel prendere iniziativa in teatri di crisi dove la diplomazia tradizionale sembra mostrare la corda. Qualcun altro, un'ascoltatrice, Anna da Verona, dice: dal trattato Balfour che i diretti interessati non sono chiamati ai tavoli decisionali. Così appunto Anna da Verona, che torna indietro al 1917, la spartizione dell'impero ottomano e poi tutta la storia medio orientale, in particolare Israele e Palestina, che conoscete. L'ultimo messaggio prima di introdurre il prossimo ospite: che differenza c'è tra gli arrivi coi barconi e i siriani che fuggono dalla guerra? Perché i greci fanno bene a non farli entrare e noi invece siamo razzisti se parliamo di porti chiusi? Così Andrea, se la domanda è rivolta a noi come Nessun luogo lontano, non abbiamo mai detto che i greci fanno bene a non farli entrare, non c'è nessuna valutazione. Ci permettiamo di sottolineare il fatto che la Grecia vorrebbe sospendere, e di fatto lo sta facendo, il diritto d'asilo per un mese, il che ha creato levata di scudi dalla maggior parte, non soltanto dei giuristi, ma delle organizzazioni, perché è un diritto riconosciuto dal diritto internazionale appunto e dal diritto dell'Unione Europea. E poi sui barconi, attenzione, qua stiamo parlando di terraferma, i barconi c'è anche il diritto del mare, quindi l'obbligo per chiunque sia in mare di salvare una barca in difficoltà. Insomma, ancora una volta, gentile Andrea, credo che la situazione sia davvero complessa, quindi facciamo attenzione a non comparare situazioni che sembrano molto vicine ma a volte hanno delle complessità in più. Detto ciò, forse è una portata particolarmente complessa, chiediamo e vediamo se lo è anche per il generale Vincenzo Camporini, adesso è consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali e stato capo di Stato Maggiore della Difesa. Generale, buongiorno e ben ritrovato qui a Nessun Luogo. Buongiorno a chi ti ascolta. Allora partiamo, generale, se è d'accordo, da una voce che è quella di Vladimir Putin, perché si è fatto ben 6 ore di incontro con Erdogan, sentiamo cosa ha detto. Выражаю надежду на то, что эти договоренности... Сперо, che questi accordi possono essere una solida base per il cessate il fuoco a Idlib e che possano mettere fine alle sofferenze dei civili. Spero che possano fermare la crisi umanitaria e creare le condizioni per l'avvio di un processo di pace tra le parti coinvolte nel conflitto in Siria. Questo coniglio dal cilindro, in realtà, se andiamo a fare, diciamo, un'operazione filologica su questo colpo da maestro di Putin e Erdogan insieme, adesso capirete perché, inizia nel settembre del 2018, quando Mosca e Ankara si accordano per una spartizione della regione di Idlib. Ovviamente Assad sempre assente. Poi però il 27 febbraio di quest'anno l'accordo salta, perché ricorderete quei oltre 30 soldati turchi uccisi, e lì vi è un'escalation di, appunto, di colpi artiglieria, di armi, di carri armati, aviazione, eccetera, eccetera, eccetera. E adesso tornano a riparlare. Ma il punto è, generale Camporini, qui stanno parlando Mosca e Ankara e Damasco è assolutamente lasciato in disparte, come abbiamo ribadito. Qual è la sua impressione? In questo caso la Siria è chiaramente il luogo dove si svolgono le competizioni, i conflitti tra le grandi potenze dell'area, che sono appunto Turchia, Iran, perché non dimentichiamoci che in questo periodo l'Iran è un po' offuscato anche per la questione dell'epidemia, ma è sicuramente un altro elemento dell'equazione di potere nell'area, la Russia. È chiaro che i siriani sono in questo caso lo strumento che viene usato per combattere questa competizione, purtroppo per loro. Sì. Assad è chiaramente colui che viene strumentalizzato dall'uno e dall'altro. Sì. Purtroppo è una situazione che, appunto, come diceva lei, si verifica in altre circostanze. Sì. Generale, generale Camporini, da militare, come valuta la supremazia della cosiddetta diplomazia armata o diplomazia militare, che in questi ultimi mesi e anni la sta facendo da padrone? In particolare, poi vi citerò un paio di volumi che sono usciti negli Stati Uniti, come illustrino in maniera molto efficace, fra l'altro uno scritto da un ex consigliere di Obama, come ormai la politica estera statunitense sia sempre comunque vincolata, a volte subordinata ai militari. Cioè si evita ormai quel lungo, faticoso processo di incontri, dialogo, dibattito, tessitura economica, perché sembra che alcuni regimi nel mondo valutino più efficace e meno dispendioso dichiarare guerra. Lei come la vede da ex militare? Ma io la vedo come una sfumatura nel senso appunto della militarizzazione, una questione che è storica. Nella storia dell'umanità tutte le vicende della politica internazionale sono state fatte con la diplomazia sostenuta da uno dei tanti strumenti, militare. Purtroppo ce ne siamo dimenticati, perché con il lunghissimo e finitissimo periodo di pace che abbiamo attraversato ci siamo illusi che bastasse la diplomazia da sola a risolvere i problemi. Generale, sono costretto a interromperla perché la linea non ci sta supportando. Proviamo a ristabilirla se riusciamo, ma ho qualche dubbio. Provo a sintetizzare quello che era il pensiero del generale Camporini, è stato nostro capo di Stato Maggiore. Sostanzialmente diceva: attenzione, perché la leva militare è sempre stata una delle armi a disposizione della diplomazia, forse ce ne siamo dimenticati per un lungo periodo, e poi a un certo punto prepotentemente riemersa e andata in scena con degli attori particolarmente spregiudicati. In queste puntate in Nessun Luogo Lontano vi stiamo raccontando la Russia, la Turchia e non solo, e insomma a questo punto diciamo che quella che è la tesi del generale Camporini sta vivendo il suo momento di massima espansione. 349-238-6666. Putin continua a dire speriamo, vuol dire che non si farà nulla, così Giuliano da Verona. Qualcun altro faceva eco all'ascoltatore sulla questione migratoria greca, eccolo qua, l'ho trovato. Luca, infatti i greci fanno malissimo a fare quello che stanno facendo, anche se sono fatti troppo carico dell'immigrazione. Il problema è che l'Europa purtroppo è stata assente e la colpa è di quegli stati che sono europei solo per prendere e non per dare, così Luca immagino faccia riferimento soprattutto al blocco Visegrad, che diciamo sotto i riflettori della coscienza collettiva europea si sta bene nell'Unione Europea, si ricevono i fondi e poi però quando è ora di fare la propria parte, per esempio le quote di migranti, beh lì insomma si allarga il petto con quel fare a volte di politica estera non particolarmente diplomatico. Riecco il generale Camporini, vediamo se la linea ci soccorre meglio. Perfetto. Generale, in ultima istanza, siamo costretti a ripensare la politica estera, per esempio anche quella italiana, con i termini che diceva lei, cioè un utilizzo, non voglio dire spregiudicato, però un pochino più malizioso forse delle forze armate, e se sì, si può fare senza un esercito europeo? Perché al momento c'è un embrione, no? No, innanzitutto si deve fare, perché non dimentichiamoci anche che l'Italia negli ultimi anni ha molto utilizzato lo strumento militare, però in una funzione, se vogliamo, un po' ancillare, ci siamo illusi che questo fosse il miglior uso delle forze armate. In realtà c'è un uso un pochino più pregnante, che è quello che stanno facendo gli altri, a supporto della loro politica, in modo qualche volta spregiudicato, come giustamente diceva lei. Il mondo è questo, purtroppo. Possiamo lamentarcene, ma se vogliamo in qualche modo essere influenti sulle vicende e ricondurre le dinamiche a qualche cosa di meno distruttivo della guerra, dobbiamo prendere atto che come dice questo scienziato politico russo Lukanov, i mediatori in questa fase della storia possono mediare soltanto se hanno una pistola in mano. Che mi sembra... mi sembra un'immagine particolarmente efficace per fare il punto, diciamo, sulla diplomazia al momento. E per quanto concerne l'Unione Europea, è chiaro che noi non disponiamo oggi di uno strumento militare, purtroppo non disponiamo neanche della politica estera, perché anche la politica estera è un qualche cosa che è lasciato ancora nelle mani dei singoli governi. Certo. Io vorrei a questo punto spendere una parola per questa benedetta Unione Europea. Sì. Tutti accusano l'Unione Europea di cose che non... E qua mi sembra che ci ha abbandonato la linea col generale Camporini, che forse voleva spezzare una lancia a favore di, credo, degli organismi dell'Unione Europea. Spesso si fa un tutt'uno, no? Mi fanno cenno che purtroppo non riusciamo a ripristinare la linea. Allora facciamo così, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come vanno le strade e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfone? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfone.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfone.com/promo. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, proseguiamo nel ragionamento. In estrema sintesi, ci siamo domandati come mai nelle principali conferenze di pace internazionali vi sono soltanto attori presenti muscolari, cioè quelli che hanno schierato eserciti, che non si sono fatti alcuno scrupolo, magari a bypassare anche logiche per noi democratiche, procedimenti parlamentari, che in alcuni di questi paesi non ci sono proprio, o comunque chiamiamola spregiudicatezza politica. Intanto si schierano militari, si fanno volare droni e poi nel caso ci si siede al tavolo per parlare. E chi subisce le conseguenze di solito sono gli stati più fragili, guarda caso ne parlavamo proprio ieri, oppure quegli stati tenuti in vita proprio da quegli attori muscolari. Sto parlando in questo momento per esempio della Siria. Un po' di vostri messaggi prima di aggiungere un altro tassello, perché l'ospite che introdurrò tra poco, che è già stato un altro nostro ospite proprio un paio di giorni fa, è la persona e dirige del presidente della più grande organizzazione umanitaria al mondo, va sostanzialmente a scontrarsi tutti i giorni in prima linea con gli effetti di questa diplomazia armata. Si è immolato il grande dialogo internazionale sull'altare, si è preferita la diplomazia armata sull'altare appunto della più antica e forse virtuosa diplomazia, con gli effetti che tra poco vi racconterò. I vostri messaggi: gli europei non vogliono perdere militari sul campo, non si farà mai un esercito europeo, così un ascoltatore. Si dà spesso la colpa al gruppo Visegrad, ma mi sembra che la Germania in questo momento sia solidale con la Grecia. Qualcun altro: per me bisogna isolare la Turchia, basta soldi nostri per finanziare la guerra e levare gli imbarghi alla Russia. L'ascoltatore di prima, Andrea, che chiedeva perché i greci fanno bene a non farli entrare, io dicevo non è una nostra opinione, ricorda che è stata la presidente von der Leyen che ha detto ai greci che fanno bene, che sono il nostro scudo, non io, dice così l'ascoltatore, ma assolutamente l'abbiamo ricordato proprio ieri e abbiamo espresso perplessità su questa infelice uscita della presidente della Commissione Europea, perché non ci si aspetta forse una valutazione di questo tipo in una crisi che è soprattutto ai confini europei umanitaria. Allora, c'è qualcun altro che dice, intanto leggiamo questo che apprezzo sempre chi non è d'accordo perché fa crescere il dibattito. Ricorrere alle armi crea un'escalation non finire, ci sarà sempre chi cercherà armi più distruttive, e poi si finiscono con l'usarlo. Così Alessandro. In realtà Allora, la storia ci consegna casi di grandi escalation di tensione, soprattutto. Poi c'è qualcuno che dice la corsa agli armamenti sottrae energia alle popolazioni, al PIL, ma c'è qualcun altro, molto spesso sono analisti anche di estrazione militare, ma in parte condivido, che stressano il concetto di deterrenza. Una politica estera che si doti di un certo armamento chiaramente permette di fare la voce grossa, perdonate se forse banalizzo un po' troppo, ma sedersi a un tavolo e avere a disposizione un'arma o una leva, fuori metafora, che poi però non si userà, sicuramente accresce il potere politico. I spoke to the leader of the Taliban today. We had a good conversation. We've agreed there's no violence. We don't want violence. We'll see what happens. Avete sentito il presidente Donald Trump, dopo quella telefonata di cui vi abbiamo dato conto, 30 minuti, 35 minuti dice qualcun altro, al telefono col leader dei talebani, un altro esempio incredibile di come si sia lasciato da parte il diretto interessato, Ashraf Ghani, pur eletto con pochi voti in Afghanistan, e si siano parlati chi? Le due parti forti, quelle che usano la voce grossa, quelle che sono capaci di raid e bombardamenti, e quelle che sono capaci di colpire Kabul, la capitale dell'Afghanistan, proprio poche ore fa, con 21 morti e 60 feriti. Questo è un po', diciamo, molto efficacemente il grande paradigma che stiamo cercando di discutere e di esplorare in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Allora, nel frattempo abbiamo qualche problema a raggiungere Francesco Rocca, che è il presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa, che è in questo momento, in questi minuti, proprio a Lesbo. Continuiamo a provare, ma evidentemente lì la situazione è piuttosto drammatica ed è piuttosto facile che in questo momento non riesca a collegarsi. Allora, un po' di commenti, perché vedo che il tema è piuttosto divisivo sul... sintetizzo ancora una volta: diplomazia armata sì o no? Qualcuno scrive: la storia l'hanno sempre fatta gli eserciti, quello di Cesare, di Napoleone. Ora con questo buonismo, scrive un ascoltatore, buonismo imperante, ci meraviglia ciò, specie come sempre noi italiani siamo malati di tavoli di dialogo, così un ascoltatore. Per fortuna che non c'è un esercito europeo, a chi si darebbe il comando? Ai tedeschi? Ma stiamo scherzando, la storia non insegna proprio niente, così un altro ascoltatore. Ma adesso fatemi andare in diretta a Lesbo, piccola isola greca di fronte alla costa turca, lì dove tante volte si infrangono i sogni di migliaia e migliaia di migranti. Francesco Rocca, presidente della Federazione Internazionale e Croce Rossa Italiana, buongiorno presidente, ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie. Ci può sinteticamente fotografare la situazione a Lesbo? Abbiamo parlato di quella sulla fascia terrestre l'altra volta, adesso sull'isola com'è la situazione, presidente? La situazione, ci sono circa 300-400 persone, non, il numero esatto non sono riuscito ad averlo, sono bloccate al porto da circa una settimana, dormono all'aperto, ci sono tantissimi bambini. Insomma, una situazione difficile da accettare, sì, perché non c'è giustificazione a questo trattamento. Sì. Francesco Rocca, in questa puntata in Nessun Luogo Lontano l'ho introdotta dicendo che lei vive quotidianamente, l'organizzazione che presiede, quotidianamente in tante parti del mondo, quello che è l'effetto della cosiddetta diplomazia armata. Intanto si mettono in campo gli eserciti e la popolazione civile di solito ne soffre, e poi si parla, si fanno conferenze e tavoli. Voi come organizzazione umanitaria siete in grado, e in che modo, di mettere in campo una diplomazia umanitaria contro la diplomazia armata? Ma diciamo, questa è un po' la nostra forza da sempre, però è sempre anche più difficile. Io credo che abbiamo una lezione, questa guerra siriana verrà studiata a lungo, perché è proprio l'epifenomeno di quello che lei ha appena detto. Se noi vediamo quando sprova al culmine di tre anni e mezzo fa, quando era insomma la situazione era molto molto più difficile. Cioè noi negoziavamo fino a 12 diversi gruppi armati, però si sapeva bene che molti di questi avevano dei riferimenti in paesi esteri. Sì. Questa è la realtà che noi siamo costretti a vivere, anche perché l'interlocutore spesso nei gruppi armati combatte per procura. Sì. Allora, dalle sue parole, Presidente Rocca non soltanto introduce quello che può essere un antidoto alla diplomazia armata, dall'altra parte aggiunge un tassello di conoscenza per noi. Cioè ci sta spiegando che quando è in campo la cosiddetta diplomazia armata, gli interlocutori si sfaldano, si moltiplicano improvvisamente, anche più difficile per voi capire con chi bisogna andare a parlare per ottenere che cosa. E quando parlo di Croce Rossa, quando dico ottenere qualcosa, è banalmente, per esempio, poter allestire una struttura di prima emergenza sanitaria in una zona di conflitto. Quanto può essere diventata ancora più difficile per voi quest'opera diplomatica umanitaria con regimi che molto spesso, come dire, i procedimenti democratici li snobbano, per usare un eufemismo? Se lei non vuole fare nomi, li faccio io, e lei non deve nemmeno, sto pensando alla Russia, sto pensando alla Turchia, sto pensando agli Emirati Arabi Uniti che appoggiano Haftar, eccetera. Quanto è più difficile con questi attori? Beh, è decisamente difficile. C'è però un paradosso, perché per noi, ovviamente non farò i nomi, sì, a volte è molto più difficile dialogare con i potenti su certe cose che non con i cosiddetti cattivoni, che molto spesso hanno l'interesse, no, a mostrarsi, certo, a mostrarci, certo, ai nostri occhi anche diversi. Però è sicuramente più difficile, anche perché quando si va a parlare, a parlare con chiarezza di alcune aree che sono sotto il controllo di quella di quel paese, sì, attraverso dei gruppi armati, ovviamente viene negato, certo, che questo, certo, fa comodo e non vuole essere con te, non vuole essere dato l'accesso alla questione. Chiarissimo, e lì Presidente Rocca diventa non soltanto un muro fisico, ma anche un muro evidentemente all'azione diplomatica. Grazie mille Francesco Rocca, Presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa. Buona giornata e buon lavoro. Siamo in ritardissimo, Valeria Bernardi, una sola parola. Ah no, perché era una puntata diplomatica. Allora, cortesemente, Valeria Bernardi, possiamo avere un order? Preludio ai titoli di coda, come sempre, i saluti e i ringraziamenti. Intanto l'appuntamento è per domani ore 10 col meglio di, e lunedì alle 16. Buon weekend da Gianpaolo Musumeci.